Ma questa collaborazione parte da un progetto che sto portando avanti con il dottore Lucio Cavazzone, il presidente di Goodland, che sta collaborando con l'associazione Berberè, ci ha messo in contatto e ha creato questo ponte. Stiamo facendo esattamente, una parte di quello che facciamo la facciamo esattamente in linea con quello che sta facendo l'associazione Berberè, che sta producendo, che sta cercando di portare un'agricoltura, a sostenere un'agricoltura sostenibile. All'interno delle sue pizzerie saranno prodotti alimentari tracciati che vedranno al centro l'eticità delle produzioni, quello che sta portando avanti Nocat. Quindi loro compreranno prodotti alimentari tracciati che vedranno al centro rispetto ai diritti dei lavoratori. In particolare, per fare la pizza sappiamo ci vuole il pomodoro e anche altri elementi che spesso sono finiti sotto l'occhio dell'attenzione proprio per fenomeni di caporalato per quanto riguarda la raccolta. Quindi insomma è un gesto importante questo. È molto importante, perché loro così andranno a sostenere, diciamo, direttamente la lotta al caporalato. Hai citato il pomodoro, ma non soltanto il pomodoro. Il pomodoro è uno dei prodotti più consumati all'interno delle nostre pizzerie. Oggi il 70% del pomodoro prodotto da questo paese purtroppo vede la presenza del lavoro irregolare, che parte dal caporalato al sottosalario. Quindi è importante che una realtà come Berberè all'interno del suo spazio, delle sue pizzerie, compra prodotti pomodori che provengono dal lavoro regolare. Noi come associazione NOCAP li garantiremo tutto questo. Si sa che gli italiani sono appassionati sia di cibo ma anche di sport, e quindi l'iniziativa organizzata con un torneo di calcio è un modo diverso per sensibilizzare su questo tema? Sì, lo sport è un grande movimento, è un grande strumento di unità, di incontro tra popoli, di incontro tra varie realtà, e quindi l'idea di aver usato lo sport, il torneo di calcio, per promuovere questa azione mi sembra importante. E oramai da un paio d'anni c'è una legge, oggi si parla molto di immigrazione, ma lo sfruttamento dei braccianti, diciamo così, di origine straniera continua nei nostri campi. Qual è il punto della situazione? Sì, vorrei un po' uscire da questo stereotipo che cerca di legare il caporalato all'immigrazione a tutti i costi. Vorrei ricordare che si tratta di un fenomeno trasversale, purtroppo, che colpisce sia i lavoratori e i migranti. L'altro, qualche giorno fa, abbiamo perso un bracciante italiano nel napoletano, che ha perso la sua vita lavorando nelle campagne a 2 euro l'ora e sfruttati tramite il sistema del caporalato. E quindi noi diciamo che l'approccio risolutivo su questo fenomeno deve cambiare. La legge sul caporalato è uno dei tanti strumenti. Adesso bisogna lavorare molto di più sulla prevenzione. La prevenzione significa accentuare i controlli, garantire la legalità colpendo l'illegalità che c'è, e poi dall'altra parte ovviamente bisogna costruire un sistema di tracciabilità della filiera. Noi avevamo chiesto allo Stato di darci degli strumenti che vanno in quella direzione, con una legge sulla certificazione etica che va costruita. Noi facciamo il nostro piccolo e insieme a tutte le realtà dal basso, come Berberè, come NOCAP, come Terra, come Immigrazione, stiamo lavorando dal basso per poter costruire un sistema di tracciabilità all'interno della filiera agricola che parte dal rispetto dei diritti dei lavoratori.